Siamo in collegamento telefonico con Jacopo Oet, benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto io partirei proprio dal nome, perché io stavo già per sbagliare, però mi hai già corretto giustamente che è proprio Et, e mi stavi raccontando sì. La storia, raccontiamola anche ai nostri ascoltatori. Però una storia abbastanza strana in realtà, cioè non è l'extraterrestre ma è Et, perché io mi chiamo Torre di cognome, con due T e due R, e per dinamiche vicissitudini discografiche di una vita e mezzo fa mi volevano cambiare il cognome perché dicevano che non era bello, che non suonava bene, volevano fare Jacopo Torre, che mi sembrava una roba veramente tremenda, almeno a me. E quindi, visto che poi quel progetto lì è andato praticamente allo sfascio, nel senso che poi dopo abbiamo anche un po' litigato eccetera, ho detto: vuoi vedere che forse le due lettere del mio cognome che avevano scartato quelli lì erano quelle buone? E quindi ho fatto Jacopo Et. Quindi da così nasce appunto questo nome. Il tuo esordio arriva con La Vecchia Guardia featuring Jake La Furia, fino ad arrivare a questo nuovo brano con un grande featuring con i nostri amici dello Stato Sociale, che è Gli Racconteremo. Cosa ci raccontate? Esatto. Vi raccontiamo un sacco di cose. In realtà è nata questa canzone qua, è nata un po' da quella domanda del cosa racconteremo ai nostri figli. E diciamo che, però, visto che comunque, insomma, per quanto mi riguarda, ho fatto una vita abbastanza spinta, soprattutto negli ultimi anni, adesso non si può ovviamente più fare niente, però insomma, diciamo che un po' di stupidaggini, per dire una parola politically correct, ne ho fatte. Mi sono detto: ma io questa roba qui però non gliele potrei mai raccontare. Invece ironicamente poi è nata questa canzone che parla proprio di cose, tra virgolette, un po', diciamo, da tenere segrete ai figli, e le spiattella tutte lì davanti. Quindi, e poi, vabbè, in realtà ci sono è una altre canzone cose. Che poi in un qualche modo le racconterà tutte. Le racconterà un po' tutte, poi racconterà di, comunque, anche dice Gli Racconteremo della trap, che comunque è inevitabilmente un trend musicale caratterizzante questo periodo, e chissà se fra 20 anni la trap sarà magari un maxi genere, un classico, non lo so. E poi cioè, ironicamente dice di quando mamma era punk la rinchiusero in comunità, quasi per dire che comunque in realtà anche, cioè, già dalla nostra generazione ancora non si era superato, no, un modo di vedere le cose, e quindi appena uno provava a essere un minimo, no, punk, viene subito rinchiuso da qualche parte. Cioè, che in maniera relativamente leggera e divertente tratta anche delle cose un po' che sono poi dei punti di vista, almeno miei personali. Un featuring che è tutto, diciamo, un connubio bolognese. Sì, guarda, con loro ci siamo in realtà conosciuti per vicissitudini musicali da un po' di tempo a questa parte. Io ho avuto anche modo di collaborare con loro come autore poi su Combat Pop, che è stato il loro brano di Sanremo, e quindi loro sono stati poi super carini. Insomma, c'era poi la situazione generale, anche il punto di vista comune per fare questo featuring, perché poi i featuring, no, fanno al momento in cui ci si gasa da entrambe le parti. Anche loro avevano un paio di cose da raccontare, anche loro vedevano le cose un po' come le vedevo io, quindi ci siamo trovati a fare questa cosa, l'hanno sposata abbastanza subito. Con Albi, oltre ad avere la musica in comune, avete anche la passione per lo stadio, per andare allo stadio. Per il Bologna, per il BSC, sì. Io non ci vado da un sacco in realtà, perché poi per una serie di motivi non mi ero abbonato negli ultimi anni. Poi ho detto: oh, dai, faccio la tessera del tifoso, adesso torno allo stadio. Ovviamente mi ero un po' imposto di non fare la tessera. Poi ho ceduto, facciamo la tessera, è venuto il Covid. Ecco, mi sa che hai portato un po' sfortuna. Ho portato mezzo sfortuna con quella roba lì. Allora, ma io ti dirò che in realtà abito proprio davanti allo stadio, e quindi io questa vicinanza con lo stadio la sento tantissimo. E quindi non ci vado, però assaporo comunque la bellezza dello stadio in qualche modo. Ma guarda, è bello più che altro. Cioè, io ho dei ricordi fantastici. E c'era anche proprio, c'erano una serie di rituali, no, nell'andare allo stadio, che rendevano la domenica un momento veramente magico, mentre invece quando poi non vai allo stadio la domenica, io almeno personalmente sono un po' lì che mi dico: adesso cosa faccio? Leggo un libro, vado fuori, vado a bere. Insomma, adesso, insomma, tolta questa situazione appunto particolare in cui il leggo un libro è quasi l'unica soluzione, ma anche negli altri casi mi mancava comunque un pezzettino. Anche perché appunto è bello raccontare anche agli ipotetici figli questi rituali che ci stanno dietro all'andare allo stadio insieme. Sì, c'era comunque, sì, anche perché appunto eravamo una balota, no, di gente che andavamo tutti lì, e quindi ci si beccava prima a bere due birre, a dire due robe, e poi quando magari non si riusciva, anche quando non si riusciva ad andare allo stadio, si andava tutti al ciccio, perché comunque anche lì c'era un po' di rituali di vedere Bologna. Poi vabbè, insomma, i borghetti, i cori. Io tornavo a casa che non sapevo la voce per due giorni praticamente. Però sì, c'era uno scambio anche proprio di balotte, no? Di gag, di bolognesità in curva, che è difficile che la trovi facile. Cioè comunque è un ritrovo proprio di Bologna per Bologna, non so come dire, no? Proprio anche a livello culturale, a livello di arricchimento, no? Senti tante cose che passano tra le bocche dello stadio, no? Un po' come appunto la mancanza che c'è comunque in questo anno e mezzo di andare a vedersi un concerto, anche allo stadio. Anche i concerti allo stadio sono sicuramente notevoli, come insomma nei live club, che in questo anno e mezzo comunque si continua a sentire la mancanza della musica dal vivo. Ma tantissimo, calcola che poi, cioè, io poi faccio il mio progetto cantautorale e poi faccio anche l'autore, e quindi io scrivo, sono uno che scrive tanto, no, durante l'anno, ma scrivere senza pensare che quella canzone lì poi verrà proposta ad un pubblico, verrà cantata da due persone come da 2000, è comunque una cosa che ti blocca per certi versi, cioè ti spinge un po', cioè ti fa far fatica nel mestiere proprio della musica, fai fatica, oltre tutta la parte, diciamo così, proprio chiara del bisogna ripartire, bisogna riaprire i club, bisogna comunque tornare a vivere e a godersi l'intrattenimento e la musica in un certo modo, ma anche dalla parte comunque di fare, poi di fare musica, cioè relegare la nostra musica soltanto alla versione digitale, comunque una roba zoppa, non so come dire, cioè gli manca un pezzo, proprio dalla parte di chi scrive si percepisce questo pezzo che manca, secondo me. Cioè io comincio proprio veramente a dire, va bene, scriviamo, lo ascoltano, però poi non la possiamo cantare insieme, anche veramente in tre, però sarebbe bello, no? Quella roba lì è una roba bella, la magia, possiamo ascoltare quanto vogliamo la musica dietro ad altri apparecchi, però poi dopo serve un momento in cui vai a condividere, in cui il fatto che ti sei imparato un testo a memoria serve. Esatto, manca proprio la condivisione, infatti esatto, mancano le tranzane tra le costole, l'attesa, come dicevi tu, lo scambio delle persone e poi cantare quella stessa cosa tutti insieme. Infatti mi incuriosiva chiederti da autore se in quello che stai scrivendo comunque ne risente questo anno e mezzo, anche proprio nella penna. Ma ne ha risentito qualcosa, nel senso che c'è una canzone che ho scritto con Max Pezzali che si chiama Qualcosa di Nuovo, in cui comunque c'è un riferimento anche a questa situazione precisa e al fatto di aver bisogno comunque di un cambiamento, no? Però diciamo che invece nell'ultimo periodo soprattutto sto un po' respingendo l'idea di scrivere comunque legato a questa situazione, perché mi dà più forza, coraggio e spinta a pensare che è già una cosa archiviata, ecco. Cioè mi sembra che almeno a me in questo momento serve pensarla così, cioè gli racconteremo una canzone che addirittura è nata prima, perché gli racconteremo una canzone che è nata prima che ci fosse questo il Covid, a livello di concetto proprio di scrittura, e questa cosa me la fa vedere di ottimo occhio, perché in questa canzone rivedo quella che di fatto era la mia vita musicale, non prima di questo momento storico. Questa cosa anche di buttarla un po' da riferimenti alla vita, diciamo così, mondana, alla cosiddetta movida, che è diventato un termine bruttissimo in questo periodo, in realtà mi fanno stare un sacco bene. Effettivamente abbiamo da un lato sicuramente bisogno di pezzi che forse ci fanno immedesimare in quello che stiamo vivendo, ma abbiamo anche bisogno di pezzi che ci parlino, esatto, di altro, e quindi esatto. Esce poi questo brano insieme allo Stato Sociale, uscito da pochissimo, gli racconteremo, quindi questa sorta di, possiamo dire, lettera ai figli che un giorno ci saranno oppure no. Sì, bene, lettera ai figli di tutti, canzone che è stata pensata del figli di, e gli racconteremo questa roba qua, a prescindere dal fatto che siano i nostri o quelli degli altri. Piaceva proprio il concetto di pensare a degli ipotetici figli come ai destinatari delle cazzate che ho fatto. Parolaccia, devo dire, dai.